vengo a ciò fra questi solitari ritiri dell'impero pliando il grave incarco più del tuo bel mi coda Cesare, a che mentir se non vecco qual cieco io ricopra di quel primo amor pare qual doglianze importune e quali ossequio frenetico parlare sul tuo bell'anno forse non miro Dio quanto brevi soltare che concedi al mio cor di vagheggiarti quando che m'amavi ogni cura obbliando i giorni neri in me con estavi a radolcir le pene del tuo tenero amore cessa ormai con rimproveri ingiusti di rinfacciarmi quel ch'io mai non feci ma se mai tralasciai per qualche istante di seguirti adorarti bella perdon ti chiedo e del grave mio errore c'è soppentito oh scaltra donna o imperador tradito quei vezzi quei sorrisi quegli ardenti sospiri e quelle care parole di amorose che me causavo ignor dove disperse nel gir per mani in compagnia dei venti e perché mi tormenti io parla per te finta correndi dura gelosamente il falso errore signor se che pur questi son di verace amor che sempre a seco per compagno fedel sarò il timore oh mio ben gradito credi pur che il mio cuore sempre più arde a tuoi begli occhi innanzi